Pearl Buck. La scuola delle donne ha già ospitato autrici e artiste asiatiche, sia contemporanee come le cinesi Han Soyen e Bette Bao Lord, sia più antiche come la mistica tibetana Ma Chig Labsgron o le giapponesi Murasaki Shikibu o Ohei Katsushika. L'estremo oriente descritto dalle donne che ne portano i geni differisce molto da quello della letteratura occidentale patriarcale che si picca di conoscere l'Asia. Ma la Cina descritta dall'americana Pearl Buck è proprio cinese, come fosse uscita dalla penna delle sue colleghe asiatiche. Questo perché Pearl, figlia di missionari presbiteriani, arrivò in Cina a soli 3 mesi. Coi genitori, visse adolescenza e giovinezza nella città di Shenzhen e fu cresciuta da una balia locale che nel raccontare le storie e leggende del suo popolo le instillò quella conoscenza e quel gusto per la narrazione che fece di lei la grande scrittrice che vinse Pulitzer e Nobel. Pearl considerò sua lingua madre la lingua Wu che si parlava in quella parte della Cina. Nel 1900, quando Pearl aveva 8 anni, la famiglia si spostò a Shanghai e un anno dopo tornò in America, rimanendoci per lunghi anni. Ma Pearl tornò in Cina e studiò calligrafia e i più importanti testi classici cinesi con un maestro locale. L'educazione ricevuta dalla balia prima e dal maestro poi segnarono profondamente la sua cultura, tanto che tutti i suoi romanzi sono ambientati in Cina e ne parlano senza che noi lettrici ci si renda conto che chi scrive non è cinese. In Cina Pearl visse con il marito professore di economia agraria, di cui aveva preso il cognome Buck, con cui è conosciuta come scrittrice. Dopo la laurea insegnò letteratura all'Università di Nanchino, fino al 1927, quando fu costretta a rifugiarsi in Giappone a causa delle ritorsioni contro gli stranieri. Fu lì che Pearl maturò la profonda conoscenza anche della cultura nipponica, che insieme alla cinese ci offre nel suo romanzo L'amore di Aiwan, che la scuola delle donne vuole proporvi. Aveva circa 40 anni quando pubblicò La Buona Terra, il suo romanzo più famoso, grazie al quale vinse il premio Pulitzer. Il romanzo, divenuto poi insieme ai due successivi I figli e la famiglia dispersa, una trilogia pubblicata col titolo di La terra cinese, cambiò per sempre il modo occidentale di vedere la Cina. Pearl seppe descrivere la gente, la vita, i valori e le debolezze della nazione da lei tanto amata, ma a noi così sconosciuta, in modo da mostrarcele umane e comprensibili. I romanzi di Pearl Buck sono venduti, letti e amati in tutto il mondo. Alcuni sono diventati dei cult, come Stirpe di Drago, Lettere da Nanchino o Vento dell'Est, Vento dell'Ovest. Nei suoi romanzi parla dettagliatamente della vita delle comunità rurali cinesi e delle loro difficoltà. Tra gli altri temi tocca quello delicatissimo delle fasciature ai piedi che le bambine cinesi subivano affinché i loro piedini venissero deformati, divenendo quelle orrende storpiature che per gli uomini cinesi dell'epoca imperiale costituivano la sublimazione della femminilità e che venivano ipocritamente chiamati loti d'oro, in mancanza dei quali le fanciulle non venivano prese in considerazione come mogli. Prolifica autrice di articoli, dalle pagine del New York Times o di Vanity Fair, usò i suoi articoli come strumento di azione politica e non esitò ad attaccare l'ipocrisia degli Stati Uniti, accusandoli di essere incapaci di mettere in pratica proprio i principi democratici che formano la pietra angolare della loro politica. A 46 anni vinse il Nobel per la letteratura, era molto amata e rispettata tanto in Occidente quanto in Cina. Ma dopo la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, nonostante la chiara impostazione filocinese delle sue opere che smascheravano gli abusi commessi dagli occidentali, Pearl fu ripudiata dagli intellettuali cinesi a causa delle sue descrizioni del celeste impero pre-rivoluzionario. Fu considerata una nemica della rivoluzione e non poté mai più tornare nella sua amata terra di adozione. Ciò nonostante, l'indomita donna continuò a lottare per i diritti umani, creò una fondazione per l'assistenza ai bambini asiatici e scrisse fino al suo ultimo respiro, producendo 43 romanzi e centinaia tra saggi, racconti, libri per l'infanzia, sceneggiature per il teatro, il cinema, i musical. Con la sua fondazione, Si occupò di centinaia di bambine e bambini in difficoltà, ne adottò personalmente sette. Lasciò il corpo ultraottantenne in America dopo aver vissuto una vita piena e operosa. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi la lettura di L'amore di Aiwan di Pearl S. Buck, Mondadori Edizione, traduzione di Andrea Damiano. Da Devana, buon ascolto.